per darmi il ciuto, a chi tu pare per dire che la tredicesima, ma lo bene. E per Gilberto, Caruso sì. Magone, assistì, compugna.